terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Traversammo in silenzio una silenziosa cittadina. La mamma si incavolerebbe da morire se scoprisse che siamo amanti, Dio santo, Lo! Non parlare così! Perché noi siamo amanti, sì o no? Che io sappia, no. Credo che pioverà di nuovo. Non mi vuoi raccontare di quelle tue piccole monellerie al campeggio? Parli come un libro stampato. Papà, che cosa hai combinato? Insisto perché tu me lo dica. Ti scandalizzi facilmente? No, va avanti. Svoltiamo in una stradina deserta e te lo racconto. Lo, devo chiederti in tutta serietà di non fare la sciocca. Ebbene? Ebbene, ho preso parte a tutti gli svaghi che avevamo a disposizione. Ensuite? Ensuite, mi hanno insegnato a condurre una vita piena e felice, a contatto con gli altri e a sviluppare una sana personalità, a essere proprio una brava bambina, insomma. Sì, ho letto cose del genere sul manualetto. Amavamo cantare davanti al grande camino di pietra o sotto le stronzissime stelle, dove ogni fanciulla univa la propria letizia alla voce del gruppo. Hai una memoria eccellente, Lo, ma sono costretto a chiederti di omettere le parolacce. Nient'altro? Il motto della giovane esploratrice, disse Lo in tono rapsodico, è il mio motto. Colmo la mia vita di azioni degne come... Beh, lasciamo perdere. Il mio dovere è rendermi utile. Sono amica degli animali maschi. Obbedisco agli ordini. Sono allegra, sono parca e assolutamente porca nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Spero che sia tutto, spirito Sona. Sì, è proprio tutto. Tranne una cosina che non posso dirti senza diventare tutta rossa. Me la dirai dopo? Se ci sediamo al buio e potrò dirtela sottovoce, sì. Dormi nella tua vecchia camera o fai tutt'uno con la mamma? Nella vecchia camera. Forse tua madre dovrà sottoporsi a un'operazione molto seria. No. Fermati davanti a quella gelateria. Ti spiace? Disse Lo. Seduta su un alto sgabello, una striscia di sole che attraversava il nudo braccio abbronzato, Lolita ordinò un'elaborata mistura di gelato sormontato da sciroppo sintetico. La mia impazienza di raggiungere Bryceland e i cacciatori incantati stava diventando intollerabile. Per fortuna, Lo fece fuori il gelato con la sua consueta alacrità. Che dici? Ci sarà una toilette? Tu non ci vai lì dentro, dissi con fermezza. Sarà sicuramente lurida. Su, usciamo. Era una bambina ubbidiente, tutto considerato. E quando risalimmo in macchina le diedi un bacio sul collo. No, disse lei guardandomi con genuina sorpresa. Non sbavarmi addosso, porcello. Si pulì contro la spalla alzata. Scusa, mormorai. È che ti voglio piuttosto bene. Tutto qui. Avanzammo sotto un cielo tetro, poi su per una strada tutta curve, quindi di nuovo in discesa. Beh, anch'io ti voglio un po' di bene, disse Lolita, con voce tenera e differita, e una specie di sospiro, e fece una specie di movimento per avvicinarsi a me. Oh, Lolita mia, non arriveremo mai. Thank you. Poco dopo, il levigato incantesimo di una curva gradevolmente inclinata, i viaggiatori percepirono nella nebbia un bagliore di diamante, seguito da uno scintillio d'acque lacustri. Ed eccolo là, meraviglioso e inesorabile sotto alberi spettrali, in cima a un viale ghiaioso, il pallido palazzo dei cacciatori incantati. Cavoli, che sciccheria! Osservò il mio volgare tesoro mentre sbirciava la facciata candida e usciva con difficoltà nell'udibile piovischio, tirando fuori con mano infantile una piega del vestito che era rimasta infilata nella fessura di pesca, per citare Robert Browning. Sotto le lampade ad arco contro le colonne bianchissime si tuffavano giocose tante copie ingrandite di foglie di castagno. Aprì il bagagliaio. Un negro gobbo e canuto, con un qualche genere di uniforme, prese le nostre valigie e su un carrello le portò lentamente nell'atrio. Era pieno di vecchiette e di sacerdoti. Lolita si accosciò per accarezzare un cocker spaniel col muso pallido, le lentiggini azzurre e le orecchie nere, che sotto la sua mano cadde in deliquio sulla mochetta a fiori. Chi non farebbe altrettanto, cuor mio? Mentre io attraversavo la calca schiarendomi la gola diretto al bureau. Lì, un vecchio calvo e porcino, erano tutti vecchi in quel vecchio albergo, esaminò i miei lineamenti con un cortese sorriso. Tirò fuori con tutto agio il mio storpiato telegramma. Il nome, dissi freddamente, non è Hamburg, e nemmeno Humbug, ma Herbert, voglio dire Humbert. E andrà bene una stanza qualsiasi, basta che mettiate un lettino per la mia bambina. Ha 10 anni ed è molto stanca. Il roseo vecchietto sbirciò bonariamente Lo, che sempre accosciata e con le labbra dischiuse ascoltava di profilo quello che la padrona del cane, una vetusta dama avvolta in veli violetti, le diceva dalle profondità di una sdraio in cretonne. Qualunque dubbio coltivasse l'osceno vecchietto, la visione di quel bocciolo lo fugò. Disse che forse aveva ancora una camera. Sì, ne aveva proprio una, matrimoniale. Quanto al lettino, signor Potts, è rimasto qualche lettino? Potts, a sua volta roseo e pelato, coi peli bianchi che gli uscivano dalle orecchie e da altre cavità, avrebbe visto cosa si poteva fare. Venne a parlarmi mentre svitavo la stilografica. Impaziente Humbert. Sa, i nostri letti matrimoniali sono tripli in realtà, disse Potts in tono intimo, quasi ci stesse già rimboccando le coperte. Una notte che avevamo molta gente, ci hanno dormito 3 signore e una bambina come la sua in uno di quei letti. Credo che una delle signore fosse un uomo camuffato, interferenza mia. Comunque, al 49 non c'è un lettino in più, signor Swine? Mi pare che l'abbiamo dato agli Swan, disse Swine, il vecchio mattacchione iniziale. Ci arrangeremo, dissi. Forse più avanti ci raggiungerà mia moglie, ma direi che ci arrangeremo comunque. I 2 rosei maiali erano entrati nel novero dei miei migliori amici, con la lenta, nitida calligrafia del delitto, scrissi dottor Edgar H. Humbert e figlia, 342 Lone Street, Ramsdale. Mi fecero intravedere una chiave, numero 342. Il prestigiatore esibisce l'oggetto che sta per far scomparire nella mano e la diedero allo zio Tom. Lolita si alzò in piedi abbandonando il cane come un giorno avrebbe abbandonato me. Una goccia di pioggia cadde sulla tomba di Charlotte. Una negra giovane e bella fece scorrere la porta dell'ascensore e la piccola condannata salì seguita dal padre che si schiariva la gola e dal gambero Tom con le valigie. Parodia di corridoio d'albergo, parodia del silenzio. e della morte. Ehi, ma è il numero di casa nostra, disse l'allegra Lo. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you made you kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're going to shake me down somehow. But what's the use? You cooked my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. Tell me, what's the use? You've cooked my goose, 'cause you took advantage of me. Say, I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I, with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours. You took advantage of poor little me. C'era un letto matrimoniale, uno specchio, un letto matrimoniale nello specchio, un armadio con lo specchio, la porta di un bagno come sopra, una finestra blu buio, un letto riflesso nella medesima, idem nello specchio dell'armadio, due sedie, un tavolino col piano di vetro, due comodini, un letto matrimoniale, un gran letto a pannelli per essere precisi, col copriletto di ciniglia rosa, toscano, e a destra e a sinistra due lampade col paralume di un frangiato carnicino. «Dobbiamo dormire in una stanza sola?» disse Lo, facendo quelle sue smorfie dinamiche, non irritate o indignate, benché prossime a esserlo, ma semplicemente dinamiche, di quando voleva caricare una domanda di un significato violento. «Ho chiesto di portare un lettino. Posso dormirci io, se credi?» «Tu sei matto», disse Lo. «Perché, tesoro?» «Perché... tesoro, quando quel tesoro della mamma lo scoprirà, chiederà il divorzio e mi strangolerà.» Solo dinamiche, senza prendere la faccenda troppo sul serio. «Senti un po', Lo», dissi mettendomi a sedere mentre lei restava in piedi a pochi passi da me e colmando di rosea luce solare lo specchio dell'armadio, stupito e compiaciuto, si guardava compiaciuta e non sgradevolmente stupita del proprio aspetto. «Senti, Lo, chiariamo questa faccenda una volta per tutte. Io sono tuo padre a tutti gli effetti e nutro per te un sentimento di grande tenerezza. In assenza di tua madre, sono io il responsabile del tuo benessere. Noi non siamo ricchi e in viaggio saremo costretti, ci troveremo spesso molto vicini. Due persone che dividono una camera raggiungono inevitabilmente una sorta di... come posso dire... una sorta di... si dice incesto», disse Lo. Dopodiché si chiuse in bagno. Io aprii la finestra, mi strappai di dosso la camicia fradicia di sudore, mi cambiai, tastai il flacone delle pillole nella tasca della giacca, aprila Lolita uscì, con aria non curante. Cercai di abbracciarla così, come per caso, un empito di contenuta tenerezza prima di cena. Lei disse: «Senti, lasciamo perdere il giochetto dei baci e mettiamo qualcosa sotto i denti». Fu allora che esibii la mia sorpresa. Oh, che bambina di sogno! Si avvicinò alla valigia aperta come una belva in agguato, camminando a rallentatore, sbirciando quello scrigno lontano sul trespolo dei bagagli. C'era qualcosa di strano in quei suoi grandi occhi grigi. Mi domandai o eravamo entrambi immersi nella stessa nebbia incantata. Nello spazio che andava dilatandosi, lei si avvicinò con la lentezza di chi cammini sott'acqua o fugga in sogno, sollevando piuttosto in alto i piedi dal tacco piuttosto alto e piegando le belle ginocchia da ragazzo. Poi prese per le spalline una blusa color rame, deliziosa e carissima, e la tese lentamente fra le mani silenziose, come un cacciatore che contempli stupefatto, trattenendo il fiato, l'incredibile uccello che tiene per le ali fiammeggianti. Poi, mentre io in piedi l'aspettavo, tirò fuori il languido serpente di una cintura scintillante e lo provò. Allora scivolò piano fra le mie braccia che l'aspettavano, radiosa, rilassata, carezzandomi con i suoi teneri, misteriosi, impuri, indifferenti occhi di crepuscolo, né più né meno, come la più dozzinale delle puttanelle, perché le ninfette imitano loro mentre noi moriamo tra i lamenti. «Perché, buon Minaci?» mormorai, perso il controllo della favella nei suoi capelli. «Se proprio vuoi saperlo», disse lei, «tu non sai baciare. Fammi vedere come si fa». «Ogni cosa al suo tempo», tagliò corto l'impappinatrice. ristorante ci accolse con un gran puzzo di fritto e un sorriso sbiadito. Era un salone pretenzioso, adorno di leziosi affreschi raffiguranti cacciatori incantati, in varie posture e altrettanti stadi di incantamento, in mezzo a un pallido guazzabuglio di alberi, driadi e animali. «Non trovi che quello lì è identico, ma proprio identico a Kilty?» disse Lo, con voce sommessa, il gomito bruno e puntuto che non indicava, ma friggeva, visibilmente dalla voglia di indicare, l'avventore solitario con la chiassosa giacca a scacchi seduto nell'angolo opposto della sala. «Il nostro dentista grasso di Ramsdale?» Lolita cercò di arginare il sorso d'acqua che aveva in bocca e posò il suo bicchiere danzante. «Ma no!» disse con una risata sputacchiante. «Dico lo scrittore, quello della reclame delle dromedari.» «Oh fama, oh femmina!» Una volta ingurgitato il dessert, una gigantesca fetta di torta alle ciliegie per la signorina, gelato alla vaniglia per il suo protettore, gran parte del quale venne da lei prontamente aggiunto alla sua torta, estrassi una boccettina contenente le pillole purpure di papà. Se ripenso a quei murali terrei, a quel momento strano e mostruoso, io lo posso spiegare il mio comportamento di allora solo con il meccanismo del vuoto onirico nel quale ruota una mente disturbata, ma in quel momento tutto mi appareva semplicissimo e inevitabile. Mi guardai intorno per accertarmi che l'ultimo commensale se ne fosse andato. Svitai il coperchio, diedi qualche colpetto e con la più assoluta determinazione feci scendere il filtro nel palmo della mano. Avevo scrupolosamente provato davanti allo specchio il gesto di portarmi alla bocca la mano vuota e inghiottire una pillola fittizia. Come prevedevo, Lo si avventò sul flacone ed esaminò le capsule rotondette e meravigliosamente colorate, colme del sonno nella bella addormentata. «Sono blu!» esclamò. «Anzi, violette! Che cosa c'è dentro?» «Cieli d'estate», dissi, «e prugne, e fichi, e il sangue d'uva degli imperatori!» «No, dai, sul serio, dimmelo!» «Oh, sono soltanto pur pillole, vitamina X, ti danno la forza di un bue o di un boia. Vuoi provarne una?» Annuendo vigorosamente, Lolita tese la mano. Come speravo, il sonnifero agì rapidamente. Lolita aveva avuto una giornata faticosa. Al mattino era andata in canoa con Barbara, la cui sorella era direttrice degli sport acquatici. Come l'adorabile, accessibile ninfetta stava cominciando a raccontarmi, tra una quantità di sbadigli repressi da incavare il palato e di volume crescente. Ah, agiva in fretta, sì, la magica pozione, e si era stancata in una quantità di altri modi. Quando uscimmo dalla sala da pranzo, come camminando nell'acqua, il film indistinto che si era profilato alla sua mente era naturalmente dimenticato. In ascensore si appoggiò a me con un debole sorriso. «Non vuoi proprio che ti dica cosa ho fatto?» Le palpebre scure socchiuse. «Se te lo dico, se te lo dico, mi prometti che sonno, che sonno, la testa ciondola, gli occhi si spengono, mi prometti che non brontolerai?» «Dopo, no. Va a letto adesso. Ti lascio qui e tu ti metti a letto. Ti do 10 minuti. «Oh, mi sono comportata così male, ma così male!» continuò scuotendo i capelli, togliendosi con dita lente un nastro di velluto dai capelli. «Fammelo dire!» «Domani, no. Va a letto. Va a letto! Per l'amor del cielo, va a letto!» Misi la chiave in tasca e scesi per le scale. Cuckoo singing his heart out, Robin raising a din. What is so rare as June in the air? Summer is coming in. Old man going out fishing, putting worms in a tin. Look at him go, so easy and slow. Summer is coming in. What's all the hurly-burly? There's a noise that's mighty queer. Could it be school's out early? Could it be laughter I hear? Feel a strange kind of stirring. Something's bound to begin. The world is dressed in her Sunday best. Summer is coming in. What is so rare as June in the air? Summer is coming in. Look at him go, so easy and slow. Summer is coming in. What's all the hurly-burly? There's a noise that's mighty queer. Could it be school's out early? Could it be laughter I hear? Feel a strange kind of stirring. Something's bound to begin. The world is dressed in her Sunday best. Summer is a coming. I like to go fishing. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.